Ma non è che lo mastico molto a parlare, infatti voi non fate niente, perché a cosa sempre fatto inglese? Devi fare un corso lungo, devi sapere le cose essenziali, dai. Lo so, adesso infatti mi compro quel dizionario che ci sono le parole, io vi salto un po' adesso, anche quello mi compro, perché se ci sentiresti anche stamattina, chiaro e chiaro, è oggi pomeriggio lo stesso. Sul 72 mi sembra era, sul canale 72, e 7.2. E dici era le vostre domande, non li ho chiamati però, cioè li ho chiamati e mi hanno risposto in Italia, ma da me non mi sono entrato. L'inglese è l'importante che sappi, tanto parlano tutti inglese, tutti. Anche i tedeschi, tu li devi parlare in inglese, il tedesco è difficilissimo, non riuscirai mai a pronunciarlo. Invece con l'inglese, se hai studiato sempre l'inglese, stai tranquillo che già ti fai capire, capito? Io li chiamo sempre in inglese. Vabbè, un passo, però non lo so fare, perché non è che... Certe cose si intende a me, però molte parole non mi escono, capito? La prima cosa è, devi sapere, 1-6-5, che è la divisione della Sardegna. Poi devi mettere un nominativo di 3 lettere, basta tuo nome e cognome. Capito? Il nominativo per VX, devi dire 165 più le 3 lettere del nominativo e gli dici che sei dal nord della Sardegna, Italia, in inglese, e ti capiscono quando gli dici così, capito? 165 è il codice della Sardegna, 165. Ragazzi, vabbè, altre riprendi e ci faccio parlare in inglese. No, io faccio parlare quella di Foggio. Thank you. Santini. Ho capito, ma se sarei in disagio un po' comunque devi brincare in alto, cazzo, devi sgattare, non c'è altra cosa. Stavo c'era un amico mio, era in Germania, lavorava in Albano. E l'ho incontrato rientrando da un viaggio da continente, da Milano. E mi ha detto di essere una pizzeria bianda, vi ha dato le dimissioni di lì. Se ci voleva andare, dici che la padrona di un ristorante, va via un difficile. Di una notte ci si ricoppa questa. A se ne era ragazzi. E di dico, ero parigio, io parigio ci sia un cazzo. Quello lì se non lo so perché non sembrava la stessa pompiere il fisso, capito? Avevo fatto il concorso e l'avevo chiamato a Roma dove andare e mi aveva detto di voglio andare, se ti vedi mi convinci, la dico, in braccio non bisogna andare, io mi cucca di avuti, lo gara e lui dice questa. Mandato la QSL, l'avevo collegata l'altro giorno. fanno le offerte lì, se ci puoi andare anche tu benissimo. Io quando mi capita l'occasione vado, è andato un amico mio, una settimana al biglietto, andato al ritorno 16 euro, è andato con la piscina, sono arrivati lì da in due, 500 euro, e sono arrivato una ghita e lì già sono rimasto. E già registrato un localino, ma come si mangiavano un panino questo, e la rotta in pizzeria, si mangiavano una pizza o un primo a poche dinami, e una pizzina blu, col contorno, cazzo, non si è passata una bella settimana, e c'è pure di discorso. Sì, anche mia nipote, è il piccolo, quello lì, è andato, ma ci dobbiamo divertirsi. Questi voli, mia figlia per sé non va, va a giocare a palla, la poca è andata vicino a Barcellona, in un paese, ma dici, ma lo sai com'era quel paese, per esempio c'era quei film western, di messicani, era Zuruani, le macchine di cui stavi pure male, sicuri buono, più di leggi non venivano in questo paese massimo. Si viene a gran carriera, tutti di strade, di strade, di ossoli, tutti bene di cacca di asini, carretti, mira, tu paro questo massimo. Ma guarda che se tu vai a Barcellona è una città grande, lì. Non è come se il suo paesino. Mi pare che andate da 20 minuti, ogni anno, in Spagna, ogni anno andate, basta per essere là, con la distruzione, e andata, sarà sulla partita, con quelle gite organizzate, ogni anno è da Bastia, pure a Parigi, in Francia, però chi è andata lì, a Barcellona che gli asia un bel. Barcellona è una bella città, poi già ti fai capire, capisci? Perché c'è l'italiano già ti fai capire, non c'è problema. Già lo so, mia moglie è andata, ci avrà avuto un 18 anni, 17, là, impara la mamma, la mamma ogni anno andava via, non sgarrava un anno. Una pezzina me la mangio, va. prendo e vai, grazie. Ehi, vabbè, sta su Marcia, ma anche la Sandra, anche la passata non si sono andato. Anche da presto mi hanno visitato la sorte, una sta campagna, gli tiravo di buggi. Era Zimino, mi diceva Russo, quasi non ricordo, però cazzo non ci sono andato perché cazzo poi il buccio ti mangia e due venne su pure la mangiare e lì cazzo mi rompe. Sì, già lo so, e poi adesso invece ti trova la polizia che hai bevuto poco a poco, già ti fanno un nuovo già. Adesso è zero, non puoi proprio bene se devi guidare, con la nuova legge che è uscita. E già lo so già, si è la figlia, neanche per i ragazzi già è stato il televisore. Le bar, adesso ti richiedono la carta di città quando è stata la vicino a pulla di birra, ti domanda la carta di città. Ti fai tutti i risami di altri, li basi i risami non i bici. No, quelli che sono sotto i 16 anni, 450 euro di multa ci sono. E chi la multa ai genitori? Se lo sentito. Sì, il verbale lo mandano ai genitori, lo mandano, il verbale della multa. E così già. E ma a chi ci chi la vendini, ai bar che gliela vendono, gli mettono 450 euro di multa. Vabbè, ma non sono ignoranti, vigino, cioè i ripensano. Ti chiedono documenti adesso, oggi no, non fa più la televisione, hanno fatto delle interviste, i vari bar, no, tutti vari gli hanno chiesto, no, no, noi assolutamente non da adesso, da molto lo stiamo già facendo. Chiedono i documenti, infatti vigi, c'era la graffetta lì, non gli avevo nulla da che al più, più migliore civilizzato. Comunque sono rimasti lì lo stesso, stanno lì giù Coca-Cola, arrangiato, e sono rimasti lo stesso, però alcolici niente. In America lo stesso è così, se tu ce l'hai un 16 anni non te ne vengono, tu ti vuoi ammazzare, misma. Vedi, in America per la cosa è sbagliata, direi, cazzo, a me non mi rilassi nel cibissimo, ti hanno le curidina, ti hanno una bussura, un fusico, un mitra, mi lo date. Sì, non te lo danno più così come prima, ma prima davi te lo compravi, adesso devi aspettare un giorno, devi avere, perché prendono informazioni, cazzo, che hanno sì prima di darti tu, te lo dare te lo devono dare se c'è in regola, perché lo dice la Costituzione e a loro li frega la Costituzione, non c'è un fermo per le armi come c'è qua in Italia, perché la Costituzione dice che l'americano deve potersi difendere, hai capito? E allora devono dargliela per forza l'arma. Però non è giusto perché non hai visto il televisore, il consulente ammazza la cura, vinci gli studenti, vinci di cara il professore, ogni tanto ce lo fanno vedere. Già. Sì, già lo so, purtroppo quando ci ne vola di capo, tutti gli ingaggi nei voci, stila chiunque la misura in chimi. Non è come se no che in Italia che fa una in una cazzo. Ne devi fare pochi di cose. E che grande ti raccontarei, ne detti uno, lo devi dire, ma da poco come prima andavi con le dinanzi da pazia, qui a c'è chiunque, andavi con i soldi al supermercato e te la compravi, se la vendevano nei supermercati. Già lo so che ho visto parecchi di filmati al televisore, anche su Sky, e già lo so che vendevano tanti supermercati, però vedi, ogni tanto gatto, succede negli sigati. Purtroppo ogni paese ha le sue leggi ed è così. In America l'americano deve potersi difendere, capito? Lo dice la Costituzione, e se tu sei una persona per bene te la danno. No, che invece no, non li vagini, non li vagini a chi. Gli italiani sono che ci mancassero di più dell'americano. Sì, ogni posto è paese, capito? Anzi no, che vi so più armi, armi in giro, anche se non le possono vendere, qua ce ne sono a bizzeffe di armi, e per quello è, la polizia sta tenendo, qua armi ce n'è un mese. Ciao.